Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, vi assicuro che in questi giorni, oggi più che mai, Milano ha un'aria stranissima, una città incantata, ipnotizzata. Gli avamposti già all'uscita delle tangenziali, maglia nerazzurra d'ordinanza, bandiera sulla spalla. In città un chiosco a ogni angolo, chiosco nerazzurro naturalmente. Poi alzi la testa, balconi fioriti, non di gerani ma di bandiere dell'Inter. Mai vista Milano così, in tutta onestà. Forse solo nei giorni di quel famoso, ormai abbastanza lontano, doppio derby di semifinale di Champions League. Chiaro che la parte invasa ovviamente Milano dai tifosi, Piazza Duomo, come dicevo prima, stazione centrale. Chiaro che la parte più fortunata e più audace della gente interista è in queste ore a Madrid. Tifosi eccellenti e non. Tra i primi certamente il direttore del Sole 24 Ore Gianni Riotta, che saluto e ringrazio. Buonasera, no, direttore. Perdonami, ma devo contraddirti, tra gli ultimi, perché avendo lavorato sino a tarda sera, ieri sera ho preso l'ultimo volo e l'ultimo... L'ultimo volo per la coda. Esattamente, quindi siamo veramente tra gli ultimi, sono tutti quanti preso un po' in giro. Però a Madrid ci sono moltissimi tifosi del Bayern e ci sono moltissimi tifosi dell'Inter, e vanno in giro insieme, fanno le foto insieme. Un'atmosfera, per quello che ho visto appena sbarcato, tranquilla. Partiamo dalla pancia del tifoso, direttore, cosa dice oggi? Ma sai, molto contento di essere arrivato a questa finale. L'ultima volta che l'Inter ci è arrivato e andava alla scuola elementare, e sono sereno, ho venuto qui con i miei familiari, è una grandissima serata di sport, è stato molto bravo il presidente Moratti, è stato molto bravo Mourinho, tutti i giocatori, andiamocela a giocare, abbiamo eliminato le squadre più forti del mondo, ci andiamo a giocare. Proprio per questo l'Inter sembra più che mai la squadra del destino, ha il vestito bello e un po' scomodo della favorita questa sera. Ma destino in spagnolo vuol dire meta, no? E allora vediamo se questa è la nostra meta. Il destino è una meta, vediamo se questa è la nostra meta. Direttore, di Inter ne ha viste tante. Raramente, di squadre di calcio ne ha viste tante. Raramente una squadra ha un leader così chiaro e così assoluto. E quasi mai quel leader così chiaro e così assoluto è in panchina. In quest'Inter, questa è l'Inter di Mourinho. Mourinho è quest'Inter. Ho trovato molto bella la copertina della Gazzetta dello Sport del mio amico Andrea Monti oggi, con Mourinho che si mette la maschera di Elenio Herrera. E ci sono degli allenatori che cambiano il paradigma del calcio, e così è stato Herrera, così è stato Sacchi. Mourinho è oggi l'allenatore del calcio di oggi, molto teso, magari può sembrare brutto agli interpreti del vecchio calcio, però estremamente spezzato, partite a scacchi in cui una punta centrale come Todd diventa ala, diventa terzino. È un calcio più cerebrale, ma bellissimo. Domani forse non sarà più così, non sarà più l'Inter di Mourinho, Mourinho non sarà più l'Inter. In tutta la vigilia, in tutta questa lunga attesa della partita, attesa appunto e apprensione per il futuro, hanno camminato insieme. Ho parlato qualche tempo fa col presidente Moratti, mi ha detto: Mourinho è come il vento. Ho visto che oggi ha riusato questa espressione che mi aveva anticipato. Mourinho è come il vento. Mourinho è una personalità fantastica, molto molto battagliera, e quindi si muoverà certamente. Quando dice che il calcio italiano è depresso, è angusto, è protezionistico, per usare un linguaggio del Sole 24 Ore, ha ragione. Io non so se andrà via o resterà, lo vedremo, non è quello che mi interessa adesso. Però ecco, se Mourinho andasse via, se le stesse critiche che ha fatto al nostro paese Mourinho le ha fatte qualche giorno fa anche Marchionne, dobbiamo chiederci perché l'Italia è un paese chiuso in cui le persone del mondo lavorano male, perché è un paese di clienti, è un paese di mediocri ed è un paese in cui la meritocrazia stenta ancora ad affermarsi. E anche in cui si ha un po' paura di parlare certe volte, di dire le cose come stanno, le cose in faccia. È quella che Mourinho ha chiamato giustamente la prostituzione intellettuale, certo. Siccome non è che le idee migliori e le persone migliori avanzano gli amici degli amici in tutti gli ambienti, e i mediocri sponsorizzati dagli amici degli amici, non solo la cricca ma anche le cricche, allora è chiaro che chi ha una personalità indipendente, che è un professionista indipendente, stenta. Verissimo. Io per questo mi auguro che rimanga, non per il bene di Mourinho, per il bene dell'Italia. Ma d'accordissimo. Ricordo, oggi sono tutti gli osservatori, sono ai suoi piedi. Ricordo cosa hanno scritto quando è stato superato dalla Roma, e se l'ha fatto consumare 14 punti. Purtroppo abbiamo anche una critica calcistica che ha perso il passo coi tempi, una critica calcistica perfetta per gli anni 80-90, ma che ha perso purtroppo il passo col calcio del 2010. Con un personaggio così si fa un po' fatica per molti a star dietro alle sue idee, a star dietro anche a questa tendenza a dire sul serio le cose. Non siamo abituati, in tutto resta. Le idee innovative, quello che mi sforzo sempre anche di chiacchierare con i colleghi più giovani, se le idee sono innovative, sono scomode, sono faticate, se vengono accettate al volo come sotto l'acqua, vuol dire che non sono idee innovative. Direttore, chiedo ancora questo: l'ombra del partito chi può essere? Da una parte e dall'altra, facciamo così. Sicuramente per quanto riguarda l'Inter penso che l'uomo del partito possa essere Eto'o, perché è un uomo da finale, e spero che l'uomo del partito non sia Robben. Grazie direttore, ci sentiamo stasera. Grazie, se non disturbiamo, a partita chiusa. Non disturbate mai. Buon lavoro tutti quanti. Grazie. Gianni Riotta, direttore Sole 24 Ore, con cui abbiamo aperto questa attesa della finale di Champions. Fino alle 18 c'è tempo anche per voi, 800 24 00 24. Mi farebbe molto piacere ricevere tanti ascoltatori ora, ma soprattutto stasera dopo la partita, nello speciale 22:30 mezzanotte, per vivere insieme gli ultimi minuti innanzitutto della finale di Champions League, salvo supplementari e rigori, per sentire insieme le voci da Madrid, ma soprattutto per parlarne insieme. Al giro oggi tappa magnifica, vince Vincenzo Nibali per distacco su un primo gruppetto formato da Basso, Scarponi ed Evans, grandi firme sulle prime montagne che contano al Giro d'Italia. A 1.33 Vinokurov, Arroyo strappa la maglia rosa all'australiano Porte. Questo è ciò che è successo. Più tardi magari ne parliamo un attimo con Pier Augusto Staggio, ma io voglio tornare a Madrid, voglio continuare a vivere questa vigilia di finale, e voglio sentire delle parole di Mourinho, quelle pronunciate ieri in conferenza stampa. Sentiamo. La Intercontinental continua a dire che la Intercontinental è importante per il club, perché un club dice: io ho vinto la Intercontinental, io sono campione del mondo. Per esempio Ibra ha vinto la Intercontinental. Che ha fatto Ibra per vincere l'Intercontinental? Ha giocato contro una squadra di Australia e con una di non so dove, e con una squadra Estudiantes, no? Con Estudiantes, no? I giocatori che hanno fatto tutto il tragitto è una cosa diversa. E per questo io dico, se è un tragitto di 15 partite, se è un tragitto di 15 partite, se tu falli 15 partite, ok, arriva con piacere. Se tu fai solo due, gli altri 13 hanno fatto altri, non mi sembra che è un grandissimo successo a livello professionale. La Champions è la competizione, è il dorado, no? Il dorado del calcio di club è la Champions. Per me sta molto, molto, molto chiaro. La Supercoppa europea è una Supercoppa, è una partita. No, non so se tu ti ricordi, però la mia prima partita con l'Inter è stata contro la Roma in Supercoppa. E dopo la partita io ho detto: ok, io ho vinto questo titolo, però questo titolo è di Mancini. Perché lui ha vinto il campionato, non io. Io gioco questa partita perché lui ha vinto il campionato, non perché io ho vinto il campionato. E per questa ragione le Supercoppe e le Coppe Intercontinentali sono solo una conseguenza di qualcosa che si è fatto, no? Le Supercoppe per me non sono i titoli che tu dici: ho vinto la Supercoppa. La Supercoppa è una cosa piccola. E niente, però l'Inter si vuole giocare Intercontinentale, si vuole giocare Supercoppa a Monte Carlo, deve vincere domani. Senza vittoria domani non c'è né Intercontinental né Supercoppa a Monte Carlo. Divagazioni su coppe e coppette da parte di José Mourinho. Questo poi lo sentiremo anche a proposito del presidente Moratti. Sto leggendo un po' di messaggi, di pronostici 1-0 Robben al 92esimo su rigore dubbio, Dani Ergufo, così si firma il nostro ascoltatore, oppure quest'altro pronostico Bayern-Inter, 0-0 e vince l'Inter a calcio di rigore, entrambe le squadre considerate la posta in gioco aspetteranno la prima mossa dell'avversario, eccetera eccetera eccetera. Messaggi 349-238-6666, telefonate 800-24-0024. Adesso andiamo dal nostro ombre del partito a Madrid, Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Dove buon sei? Buon pomeriggio da Paseo della Castellana, cioè praticamente sotto il Santiago Bernabéu. Io sono nel lato dove ci sono i tifosi dell'Inter, manca una mezz'oretta scarsa all'apertura dei cancelli, ma devo dirti che già da questa mattina tutto il quartiere intorno a Santiago Bernabéu, tra l'altro un quartiere bellissimo, centrale, veramente altra cosa rispetto ai quartieri, alle periferie che circondano gli stadi italiani, beh, da questa mattina è animato dai tifosi italiani e tedeschi in quella che gli spagnoli hanno ribattezzato la fiesta del football, e finora lo è stato anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché è stata una grande festa dei tifosi italiani e tedeschi mescolati insieme, malgrado misure di sicurezza che avrebbero dovuto tenerli separati, ma sin qui davvero non è successo assolutamente nulla. Situazione biglietti, sono tanti italiani anche che sono partiti per la Spagna senza il biglietto in tasca. Le agenzie dicono che gli ultimi in giro, in mano a non so chi, viaggiano sui 1.000-1.200 euro. Guarda Carlo, allora intanto la buona notizia è che oggi, da quello che mi risulta, ci sono stati meno problemi per la partenza dei tifosi dall'Italia. Ieri c'erano stati ritardi di diverse ore, oggi ho notizia diretta che gli ultimi charter, quelli che erano andati in partenza intorno alle 2, sono partiti sì con una mezz'oretta di ritardo, ma sono atterrati a Madrid, che a Spagna significa che grosso modo i tifosi interisti sono arrivati tutti, lo stesso vale per i tedeschi. Ecco, considera che si stima che ci siano qui almeno 4-5 mila tifosi interisti senza biglietto. Io ne ho incontrati tantissimi a partire da questa mattina, così come circolano tantissimi bagarini e circolano tantissimi biglietti falsi. Le quotazioni sono assolutamente inavvicinabili. Questa sera ci sono 3 ordini di biglietti. I biglietti di prima categoria, che venivano venduti al botteghino, diciamo ad oltre 300 euro, viaggiano sulle cifre che hai ricordato sì. Tu. Biglietti di seconda categoria siamo poco sotto i 1.000 euro, e biglietti di terza categoria, che poi grosso modo corrispondono al terzo anello di San Siro, quindi i biglietti assolutamente popolari, anche se al botteghino costavano 150 euro, non vengono venduti a meno di 500-600 euro. Il problema è che girano tantissimi falsi, malgrado l'UEFA abbia studiato per la prima volta non un biglietto ma una sorta di bancomat, perché il biglietto è una sorta di carta di credito. Tanti hanno acquistato questi biglietti fasulli, salvo poi accorgersene quasi immediatamente ai primi controlli, perché qui i controlli dei biglietti e i filtraggi sono continui, perché in realtà c'è un chip particolare e ci sono alcune scritte che si devono sentire al tatto, e quindi è immediatamente comprensibile qual è il biglietto falso e qual è il biglietto vero, e ti assicuro che non sono belle scene. Ho assistito a scene di ragazzi che hanno speso centinaia e centinaia di euro e si sono accorti dopo pochi minuti di avere in mano sostanzialmente un falso. Però insomma, al di là di questo, in tanti avevano anche scelto di venire a Madrid senza biglietto, anche solo per il gusto di esserci e di assistere alla partita da uno dei maxi schermi qui in città, perché comunque questa è una festa anche fuori dallo stadio, non soltanto, certo, non soltanto dentro, e da questo punto di vista sta mantenendo le attese. Poi se vuoi io ti inserisco un altro elemento. Sì. Avevo sentito una mail, credo, di un ascoltatore che parlava delle squadre bloccate all'inizio in attesa della prima mossa degli avversari. Allora io voglio inserire l'elemento della temperatura, perché a Madrid da 2 giorni fa estate, in questo momento io non ho sotto mano un termometro, ma credo siamo oltre i 30 gradi e fortunatamente tira una leggerissima brezza, ma ti assicuro che appena il vento cala e all'interno del Bernabéu di vento ne circola poco, la temperatura è quasi irrespirabile. Lo stesso è stato anche ieri, quando Mourinho ha scelto di far allenare la squadra alle 3:30 al centro sportivo di Valdebebas, ma hanno raccontato i colleghi che hanno assistito all'allenamento davvero con una canicola estiva, forse anche una scelta per cercare di abituare i suoi a questa temperatura. Io credo che né Bayern né Inter in questa stagione, tra l'altro con una primavera particolarmente fredda e piovosa, abbiano mai affrontato una gara con queste temperature, e penso che per quanto alle 8:30 le temperature saranno calate di qualche grado, questo possa essere soprattutto all'inizio della partita un fattore. Giovanni, ti chiedo ancora questo, poi ti lascio muovere all'interno del Bernabéu, naturalmente ci risentiamo tra pochissimi minuti, però prima voglio sapere questo, la marcia di avvicinamento della squadra a questa partita, la giornata dell'Inter come state, come sarà? Allora, la giornata dell'Inter è stata questa. Questa mattina c'è stata la sveglia libera, poi c'è stato il risveglio muscolare che è stato effettuato sostanzialmente in albergo, ma che è stata veramente di uno stretching leggero. Poi la prima riunione tecnica in cui Mourinho dovrebbe aver comunicato la formazione, anche se lui in realtà poi la conferma la dà nella seconda riunione tecnica, che è quella che si sta svolgendo proprio in questi minuti. E poi c'è stato il pranzo, un leggero riposo, la seconda riunione tecnica, che è quella in cui Mourinho rifinisce i particolari delle indicazioni a ogni singolo giocatore su l'avversario diretto. Mourinho, da questo punto di vista, oramai lo conosciamo, è molto attento a tutti i particolari. E dopo la seconda riunione, la partenza in pullman, l'albergo dell'Inter dista 3 km qui da Santiago Bernabeu, lungo il Passeo della Castellana, che è questo grande viale che attraversa Madrid. L'Inter arriverà allo stadio intorno alle 18.30-18.45, secondo il cronoprogramma della UEFA, che per le finali è una cosa seria. Alle 19.30 Mourinho dovrà consegnare all'arbitro la distinta, alle 20 le squadre entreranno sul terreno di gioco per il riscaldamento. A quel punto sarà tutto assolutamente chiaro, anche se pare di capire che non dovrebbero esserci sorprese particolari in casa Inter e nemmeno in casa Bayern, ma questo poi magari vediamo di approfondirlo nei prossimi minuti. Perfetto, perfetto. Giovanni Capuano, tu stai naturalmente collegato con noi. Un po' morbosamente mi intriga da matti questo discorso relativo alle ore e ai minuti che precedono una partita così importante. Pertanto voglio fare due chiacchiere con un mio amico che di vigilie di questo tipo ne ha passate un po', insomma. Andrea Zorzi, buonasera. Ciao Carlo, ben ritrovati. Ciao, ben ritrovato a te. La vigilia di una finale, come si gestisce la tensione? Cosa succede in quegli alberghi, in quegli spogliatoi? Il primo avvertimento è che dal di fuori è molto peggio. Cioè, sì, chi non la vive si fa prendere la citazione, anche perché non sa altre cose da fare. Cioè, noi dobbiamo aspettarvi, se sei un po'. Se sei un giocatore, se sei un attore, sei così impegnato, mentre appunto gli ultimi aspetti tecnici a stare concentrato, che il tempo passa via veloce. Naturalmente la tensione viene moltissimo. Io ricordo per esempio che quando ero molto nervoso reagivo, mi veniva un sonno, avrei dovuto dormire in ogni istante, quindi riposivo dopo pranzo. Però alla fine i programmi sono sempre il solito, quindi il pranzo, l'allenamento, a me piaceva molto l'allenamento, qualcun altro invece lo odiava, e però poi ti confesso che alla fine la testa è così concentrata su aspetti pratici che il tempo di pensare oddio cosa succede se è molto meno rispetto a chi è fuori. Sì, Andrea, invece quando arrivi nel tuo caso al palazzetto, nel caso dei calciatori allo stadio ed entri in quello spogliatoio, io immagino che lì la tensione, sonno ti è passato, immagino che la tensione lì sia altissima, in quei minuti cosa succede? Ma sai, ognuno ha il suo metodo. Hai visto moltissimi adesso arrivano con delle cuffie gigantesche, sì, sono molto seri, leggere in genere è molto difficile in quel momento. Per davvero io cercavo di rilassarmi pensando alle cose che dovevo fare. In genere la cosa più utile per me era quella di essere pronto a fare una battaglia lunga e faticosa, essere pronto ad arrivare al quinto set, alla palla decisiva, ai vantaggi, e non farmi prendere dalla voglia di vincere facilmente, perché era un senso di debolezza. Ovviamente questo è il mio approccio, però so perfettamente che altre persone che avevano caratteri diversi dai miei erano molto più rilassate. C'era chi scherzava, chi sorrideva. Ovviamente quello però è il momento, secondo me, tra i più interessanti, anche perché l'attimo prima, e qui sei in una fase di attesa, quasi di mobilità, è un momento complicato e potrebbe essere difficile da gestire. Invece immagino poi quando cominci a fare il riscaldamento, insomma, la tensione un po' si scioglie, credo. Ma considera questo: nei riscaldamenti normali ci metti un po' a far passare il dolore alle ginocchia, alla spalla, a fare un tuffo. Quando esci dallo spogliatoio in un momento caldo, sei già caldissimo, sei già pronto, puoi schiacciare fortissimo, perché tutto questo processo è venuto dalla testa negli spogliatoi. E non è detto che questo sia però sufficiente a rilassarti, perché in realtà aspetti proprio il fischio d'inizio e quindi ti guardi quasi a vedere le azioni per vedere cosa fanno gli altri, cosa fai te per sentire, per avere reazioni. Un'altra cosa che mi ricordo mi era molto utile è che ricordo di avere vinto quando avevo buone sensazioni, ma di avere anche perso con buone sensazioni, e invece viceversa di avere perso con cattive sensazioni e avere vinto. Quindi capitava di tutto. A quel punto ho cercato di smettere di pensare troppo di avere sensazioni. Cosa devi fare? Devi saltare più in alto possibile, stendere il braccio e tirare lungo. Mi pare sia un atteggiamento per chi ha compiti come i miei, quindi abbastanza specifici, dovevo solo schiacciare, farlo meglio possibile, non avevo compiti organizzativi come il palleggiatore, è interessante limitare gli spazi di preoccupazione. Grazie Andrea, un abbraccio. Buona giornata. Grazie ad Andrea Zorzi. Amico Sergio, taxista di Milano, mi scrive: ho sul taxi due ragazze olandesi che ho portato a San Siro a comprare la maglia di Snyder e le sto riportando in Duomo, sono venute per shopping e per vedere la finale a Milano. Mourinho su Moratti, sentiamolo. È una persona molto speciale, molto molto speciale, che io ringrazio tanto di mi aver preso per l'Inter 2 anni fa, e che mi piacerebbe tanto domani vederlo a piangere, vederlo con la coppa in mani, avere la sua foto insieme al suo padre ad Appiano Gentili quando suo padre ha vinto la Champions. Mi piacerebbe tanto vedere una foto sua al lato del suo padre, e per tutta la famiglia Moratti sarebbe una cosa veramente incredibile, e mi piacerebbe tanto tanto tanto dare il mio piccolo, la mia piccola contribuzione per fare succedere qualcosa di fantastico per loro. Mi piacerebbe tanto. Mourinho dolce come il miele nei confronti di Massimo Moratti. Io ho già ascoltato in linea Marco, provincia di Macerata, e un altro Marco che chiama da Pavia. Giovanni Capuano, dove sei invece tu? Sono dentro il tempio. Ah, e com'è? Mi viene quasi da parlare sottovoce per non rompere la sacralità di questo momento, perché sono gli ultimi istanti in cui il Bernabeu è vuoto, ci sono soltanto gli addetti ai lavori, ci sono dei giardinieri che stanno risistemando il terreno da gioco, ci sono gli steward che stanno prendendo posizione, si ode da fuori il rumore della battaglia, il rumore dei tifosi è sempre più forte. Qui mancano circa 5 minuti all'apertura dei cancelli. Devo dirti che anche vuoto il Bernabeu fa davvero un'impressione tutta particolare, è uno stadio imponente, è uno stadio in cui questa mattina hanno lavorato circa un centinaio di tifosi per parte per preparare due scenografie che si annunciano bellissime. Io vedo alla mia destra, appena accennata, quella dei tifosi dell'Inter, dovrebbe essere un grande pallone, il logo della Champions, circondato da un enorme tricolore che copre tutti e tre gli anelli del settore riservato ai tifosi dell'Inter. A sinistra invece c'è una grandissima macchia biancorossa che è ovviamente la scenografia dei tifosi del Bayern. Da questo punto di vista il Santiago Bernabeu è forse davvero lo scenario migliore dove si possa giocare una partita di questa importanza, e lo si percepisce anche solo respirando l'aria qui dentro. Il mio vicino, dato che esulta ad ogni gol dell'Inter, mi farà sapere come andrà la finale dal secondo piano, scrive Gianfranco via SMS. 349-238-6666, il vostro numero per i messaggi, 800-24-0024 per le telefonate. Vale, rispondiamo insieme a questi due ascoltatori. Marco, provincia di Macerata, buonasera. Buonasera, senta, io prima ho ascoltato al direttore del Sole 24 Ore, sì. No? Sinceramente ha fatto un monologo. Sinceramente? Sinceramente un'altra volta, comunicazione disturbata, ma riproveremo. Allora andiamo da un altro Marco, da Pavia. Pronto? Pronto? Eccoci. Sì, ciao Carlo. Ciao. Sentivo prima che accennavi a un Mourinho dolce, ma diciamo che dolce è una parola che su Mourinho non mi vede particolarmente d'accordo, alla luce del fatto che lui si pone già come vincitore, secondo me, avendo dato delle dimissioni prima di una finale di Champions League, cosa che, avendone vissute tante da tifoso milanista, mi sembra un atteggiamento quantomeno discutibile. Ma dimissioni lì, non penso ci siano state dimissioni, si sa da un po' che si respira da un po', si intuisce da un po' che Mourinho lascerà l'Inter dopo questa stagione. Peraltro personalmente lo ripeto già da qualche tempo, insomma la sensazione è questa e si concretizza. Ma c'è anche una ragione quasi tecnica, io direi. Io credo che un allenatore come Mourinho, per il suo modo di allenare e di vivere con la squadra, insieme alla squadra, eccetera, non possa durare all'interno di un club più di 2, massimo 3 stagioni. Questa è la mia impressione. Sì, secondo me, diciamo che lui, se dovesse perdere la finale, cosa che non credo, sarebbe un vincitore lo stesso, visto il risultato storico al quale è arrivato, no? Questo nei fatti. Tutto sommato, non sarebbe deplorevole riprovarci un terzo anno, nel caso, non mi sembra così un'avventura di anni che sia proprio nel suo costume. Diciamo che anche al Chelsea aveva fatto 4 stagioni, no? Ma penso più per le ragioni cui facevo riferimento. Insomma, è molto, io credo sia un po' come Sacchi, no? Molto complesso lavorare con un allenatore che ti chiede così tanto come José Mourinho. E poi, in tutta franchezza, dovesse vincere questa sera, insomma, l'anno prossimo, a ripartire da qui per andare dove? Abbiamo sentito prima il discorso corretto, secondo me, di Mourinho su coppe e coppette, su intercontinentali, supercoppe, cose varie assortite che va bene per le squadre e per gli sponsor. La coppa è questa e la partita è questa sera. Grazie Marco. Giovanni Capuano, che ne pensi? Sì, guarda, sulla valutazione tecnica io concordo pienamente, soprattutto se stasera l'Inter dovesse vincere la Coppa. Del resto non è la prima volta ieri che Mourinho ha espresso quello che pensa sul valore della Coppa Intercontinentale, che tra l'altro non lo ha tenuto legato nemmeno al Porto dopo la vittoria della Coppa dei Campioni del 2004. È evidente che oggi non ci sono quote sull'arrivo di Mourinho al Real Madrid, però io credo che sia anche corretto dire che Mourinho è un allenatore e un uomo che comunque riserva sempre a sé la massima possibilità di scelta e di movimento. Quindi attenzione a non sottovalutare quelle 48 ore di tempo che lui comunque ha chiesto e certamente si prenderà prima di maturare o quantomeno comunicare la decisione, perché è vero che questa è una decisione che, se confermata, è nata nell'inverno, soprattutto quando si è definitivamente rotto il rapporto già logoro tra Mourinho e tutto ciò che lo circondava a livello ambientale nell'ambiente calcio dell'Inter. Però è anche vero che da quel momento in poi sono successe anche tante cose positive, e il rapporto invece che si è creato all'interno dell'ambiente Inter con il tecnico portoghese è qualcosa di unico. Io onestamente seguo l'Inter da 20 anni e non ricordo qualcosa di simile. In queste settimane, per preparare anche questa sfida, ho letto qualcosa che riguardava la grande Inter e il rapporto che si era formato ad esempio tra Elenio Herrera e l'ambiente dell'Inter, la famiglia Moratti. Ecco, Mourinho è davvero ciò che di più vicino si possa ritenere a quella grande Inter e a quel rapporto. Quindi attenzione a non sottovalutare l'aspetto emozionale delle prossime 48 ore, anche se ovviamente non ci sono quote sul fatto che a fine stagione ci sia un cambio tecnico. Però Mourinho, così come nei suoi contratti non si lega se non con una clausola di rescissione da entrambe le parti, è uomo che potrebbe anche ribaltare il tavolo in 48 ore. Filippo Maria Ricci oggi scrive sulla Gazzetta dello Sport che Madrid tiferà proprio per Mourinho, per facilitare in qualche modo l'arrivo di Mourinho al Real Madrid. È così, Filippo? Senz'altro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Beh, qua il Real Madrid ha una tradizione, quella di comprare i palloni d'oro dopo che li hanno già vinti. E secondo me si può continuare in quella tradizione. Se Mourinho dovesse vincere sarebbe ancora meglio, un candidato perfetto. Candidato perfetto se dovesse vincere e in qualche modo facilitare appunto il passaggio in merengue. Secondo te, a sensazione, tu che sei lì padrone di casa, sarà l'allenatore che seguirà l'anno prossimo? Sì, sicuramente, non ho dubbi. Non hai dubbi. Non fosse altro per l'intervista rilasciata a Marca, perché nella settimana che porta alla finale di Champions, con tante possibilità mediatiche che ti si offrono, decidi di parlare per un paio d'ore col giornale che più rappresenta Real Madrid. Lorenzo da Como che scrive: io sono solo un tifoso interista, me la sto facendo addosso dalla tensione, immagino i ragazzi negli spogliatoi. 800240024, numero verde, e questa sera vi ricordo, vi aspetto tutti quanti a vivere insieme gli ultimi minuti della partita e soprattutto a chiacchierare insieme, comunque vada, perché sarà un bel modo di tenerci compagnia, della finale di Champions League dalle 10:30 fino a mezzanotte. Microfoni aperti naturalmente agli ascoltatori. Filippo Maria Ricci e la vigilia del Bayern Monaco. Io li vedo bene, li ho visti bene, rilassati. Ieri Van Gaal mi ha favorevolmente impressionato, rilassato, persino direi simpatico, in assoluto controllo di una platea vasta, variegata. E il giorno prima Robben, lo stesso Van Bommel e Schweinsteiger, una ottima atmosfera, ma hanno la sensazione veramente di non avere molto da perdere e soprattutto di essere in una, diciamo, striscia positiva. Sul campo che hai visto bene? Insomma, in generale il Bayern è una squadra che gioca bene, che, come ha riconosciuto Van Gaal, ha avuto la sua fortuna per arrivare qua, ha avuto bisogno di fortuna, e per me molto dipenderà, può sembrare ovvio, ma insomma, soprattutto senza Ribéry, molto dipenderà da quello che decide di fare Robben, che ha se vogliamo, un po' il dente avvelenato con Mourinho, non il dente avvelenato, ma vuole dimostrare al Bernabeu cosa si sono persi lasciandolo andare via. E questo per me è un po' il giocatore chiave. E l'altro punto è ovviamente la difesa del Bayern, che non è la difesa dell'Inter, che non è un esempio di, diciamo, di difesa rocciosa. E un po' dipenderà da lì. Se l'Inter va in vantaggio, metà della Coppa è lì. E se invece, se al contrario, il Bayern dovesse riuscire a passare, è chiaro che col modo di giocare, con l'entusiasmo che hanno, diventerà complicato. Filippo, per chiudere, ho sentito un'intervista a Valdano ieri, gli facevano notare però i giocatori potrebbero decidere questa Champions League che tanto volevate, saranno quei due che avete lasciato andare via, Sneijder da una parte, Robben dall'altra, e lui con un bel sorriso ha detto sì, ma abbiamo preso Cristiano Ronaldo e Kakà, quindi due ancora più forti. Sì, quella era la risposta che lui si era preparato da tempo. Bravo, ovviamente, esatto, ovviamente. E è una risposta che avremmo dato tutti al suo posto. Ed è il principio della fine, se vogliamo, per il Real Madrid, perché dimostra che c'è la confusione. Volevano mandare via Van der Vaart e tenere magari uno dei due. Hanno finito per mandare via Sneijder e Robben, hanno tenuto Van der Vaart, che ha tolto poi il posto a Kakà. Quindi la testimonianza che la stagione non è andata proprio benissimo, con tutte le risposte che può dare Valdano. Naturale, la testimonianza del fatto che al Real Mourinho serve come il pane, onestamente. Sì, serve lui, serve uno che sappia gestire questo spogliatoio, sì, questa squadra un po' sbilanciata, e in generale serve un vincente, come era vincente Capello, come era vincente Heynckes, come era vincente Del Bosque, tutta gente che ha vinto e poi sarà mandata via. Certo, uno che conosca la strada magari da tenere anche dopo che ha vinto, insomma. Grazie Filippo. Vediamo, questo già non ne sono tanto sicuro. No, questo nemmeno io. Grazie Filippo. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie, buon lavoro, e se possibile ci sentiremo anche con Filippo Mararici nell'happening di questa sera. Vi ricordo, 10:30, mezzanotte. Andrea da Livorno naturalmente ci ascolterà questa sera, o no Andrea? Senz'altro, spero di poter blindare ad un gol di Robben, lo dico senza timore, senza niente, con buona pace dei miei vicini interisti, ma tutto certo. Chiaro, tutto chiaramente, sono tifoso milanista e livornese, quest'anno me l'hanno fatto ingozzare davanti e dal rovescio, stasera spero di potermi rifare. Assolutamente, fa parte del gioco, è inutile far finta di niente, essere ipocriti. Rosella Sensi oggi dice... mi tapperò il naso e ti farò Inter, anche se non avrei voluto, però forza Italia e quindi forza Inter. Avrei preferito dire no, quest'anno stasera tifo Bayern perché mi va così. Forza Italia e mondiale. Sì, no, forse, ma naturale. No, stasera. E una cosa velocissima, poi la saluto facendole anche complimenti per la trasmissione e per l'equilibrio. Non sono così sicuro che Mourinho vada via, perché non lo vedo molto molto adatto, secondo me lui non si sente molto adatto, anche se sarebbe una bella sfida allo spogliatoio particolarmente incasinato del Real Madrid. Ascolta per radio, grazie, complimenti di nuovo. Grazie a lei Andrea, ma secondo me invece quello spogliatoio sarebbe proprio quello che, insomma, il nuovo grande stimolo per uno come Mourinho. Non credo proprio che Mourinho abbia paura di quello spogliatoio, della gestione di quello spogliatoio. È il suo mestiere ed è il mestiere che fa meglio, onestamente. Giovanni Capuano, dove sei? Ciao la stampa, Carlo. Ciao la stampa, sono qui con Marco Ansaldo. Ho ascoltato quello che ha detto Filippo Mariacci, allora se vuoi proviamo a entrare un attimino in quello che accade tra poco più di due ore. Tra l'altro ti dico che sostanzialmente il Bayern dovrebbe essere quello annunciato alla vigilia, dunque con questo 4-4-1-1 con Müller dietro a Olic e con Altintop scelto per prendere il posto di Ribéry. Io con Marco Ansaldo volevo partire proprio da questo, cioè dalle due assenze, Ribéry e Thiago Motta. Tutti danno per scontato che pesi di più l'assenza di Ribéry, che è un giocatore certamente importante, un fattore per il Bayern di Monaco. Io però voglio provare a sottolineare invece che cosa perde l'Inter con Thiago Motta, anche considerato che su quella fascia il Bayern alla fine potrà in questo modo, con Altintop che è un giocatore più difensivo, proteggere meglio Batshuayi, laddove l'Inter ha il suo punto di forza con Maicon e quasi certamente Pandev. Chi perde di più perdendo Ribéry e Thiago Motta, Marco? Ah, io credo che comunque perda di più il Bayern, perché il Bayern è una squadra che gioca molto nell'insieme, ma non ha dei giocatori di grande fantasia, dei giocatori che possono cambiare la partita se non Robben. E Ribéry era l'altro. Ricordo di aver visto il Bayern con questi due, sulle fasce era veramente difficile riuscire a controllare, e credo che nel calcio di oggi chi riesce a esprimersi molto bene sulle fasce abbia un enorme vantaggio proprio nel gioco. Per quanto riguarda l'Inter, Thiago Motta è importante, è un giocatore di quantità più che di qualità, che dà un contributo notevole all'assetto dell'Inter, però credo che sia sostituibile. L'abbiamo visto tante volte l'Inter giocare senza Thiago Motta e le cose sono andate bene. Cioè, Mourinho ha gli uomini per sostituirlo, perché Zanetti è più difensivo, però quel ruolo lo può coprire bene. Stankovic è più offensivo, ma quel ruolo lo può coprire bene. Insomma, lì in mezzo, secondo me, Thiago Motta fa una differenza, ma non enorme rispetto a chi lo sostituisce. Tra Ribéry e Altintop, secondo me, c'è una bella differenza. Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, anche l'Inter dovrebbe essere quella annunciata nella vigilia, quindi alla fine Mourinho dovrebbe scegliere quello che oramai è il marchio di fabbrica a partire dalla trasferta di Londra contro il Chelsea in poi, quindi il 4-2-3-1, tra l'altro tenendosi in panchina due uomini come Stankovic e Balotelli, che sono due possibili cambi di passo. Io però volevo chiedere a Marco Ansaldo sul secondo aspetto di questa partita, cioè c'è l'aspetto tecnico e tattico e poi c'è l'aspetto emozionale, e da questo punto di vista l'Inter è certamente una squadra che non può arrivare da favorita a questa partita. In fondo ci torna dopo 38 anni contro una squadra, una società che sono abituate a praticare questi palcoscenici. Potrà questo in qualche modo, soprattutto all'inizio, giocare un ruolo, avere un peso, o Mourinho ha inculcato in testa questi giocatori che sono più forti anche del loro passato recente in Europa? Ma io non credo alle squadre come a un blocco, cioè comunque è un blocco societario, cioè secondo me poi in campo vanno dei giocatori, ciascuno di loro portandosi appresso la propria storia, quindi la storia dei giocatori dell'Inter non c'entra niente con gli anni in cui l'Inter non è riuscita a vincere nulla, non è riuscita ad arrivare in Europa. Voglio dire, Eto'o è uno che l'anno scorso ha fatto il triplete, non è che possiamo dire che è un giocatore che arriva e quindi arriva emozionato perché dall'Inter da 40 anni non arriva a vincere in Europa, e così vale per gli altri. Cioè, secondo me la garanzia dell'Inter è la sostanza dei giocatori argentini e dei sudamericani e dei brasiliani, però di quei brasiliani tosti. Adesso manca Thiago Motta, ma lo stesso Maicon tutto sommato è un brasiliano particolare, un brasiliano tosto. Lucio è un brasiliano particolare tosto, quindi questa caratteristica di, diciamo, di solidità è molto importante. Questa è una caratteristica che all'Inter di adesso cosa conta come era l'Inter di 10 anni fa. In più mi sembra che la svolta che è stata data dall'eliminazione del Chelsea e dall'eliminazione del Barcellona sia stata questa, cioè l'Inter oggi in Europa mi sembra che abbia la mentalità che ha acquisito in questi anni in Italia. Abbiamo visto tante partite del campionato italiano in cui l'Inter magari andava sotto di uno o di due gol, o era in condizioni difficilissime. Penso ad esempio alla partita interna contro il Siena, che vinceva 3-2 a 2 minuti alla fine. Beh, l'Inter alla fine l'ha vinta 4-3, cioè perché aveva la consapevolezza di poter comunque ribaltare il risultato. Adesso in Europa vedo un Inter che ha questa consapevolezza, questa forza. Poi che basti a battere il Bayern, questo è tutto un altro discorso, ma ovviamente in una partita secca può succedere di tutto. Lo scopriremo questa sera, naturalmente, tutto questo si chiama mentalità e l'Inter ce l'ha questa sera, la vedremo sul campo del Bernabeu. Io ringrazio Giovanni Capuano, naturalmente, e Marco Ansaldo. Carica bene il telefono, caro Giovanni, per questa sera 22.30, mezzanotte staremo insieme con tutti gli ascoltatori che vorranno intervenire, primo tra i quali Antonio da Napoli, che è già in linea. Non riesco a parlare con lui per ragioni di tempo, ma se possibile lo aspetto per primo questa sera. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Valeria Bernardi in regia, ci sentiamo dopo.